Con Matteo Giardiello, regista dello spettacolo Workers, scritto da Alberto Prunetti, che sarà a Roma il prossimo 18 novembre nell'ambito della festa di inaugurazione della Biblioteca Popolare Mondo Piccolo. Matteo, ben trovato. Ciao, ciao, ciao a tutte e a tutti, eccoci qua. Ci racconti? Sì, no, siamo molto, davvero molto felici di portare questo lavoro a Roma perché è un lavoro, insomma, che abbiamo prodotto come teatro popolare. Apro giusto una piccola parentesi di che cos'è il teatro popolare, insomma, che è Certo. poi la realtà che ha fatto questo spettacolo. È praticamente la parte artistica, il braccio artistico dell'ex UPG occupato Esobazzo di Napoli. Quindi è tutta la parte, insomma, che si occupa della sia programmazione artistica che avviene all'interno dell'OPG, ma proprio della produzione artistica teatrale, musicale, danza, insomma, che avviene all'interno dell'ex OPG. Perché? Perché noi vediamo appunto nell'arte, nel teatro, uno strumento utile, anzi utilissimo, per veicolare i nostri messaggi, per veicolare quelle che sono, insomma, le storie e le voci di chi purtroppo troppo spesso poi su invece nelle storie ufficiali oppure nelle cronache ufficiali non trova voce. E Workers è questo. E questo perché, insomma, è una maniera attraverso cui Alberto Prunetti, con anche, voglio sottolineare, Simona Baldanzi, che è una scrittrice mugellana, insomma, di fi vicino Firenze, e anche con la mano di Cumming Cube, hanno voluto insieme a noi un po' raccontare uno spaccato, insomma, della classe operaia, dei lavoratori dagli anni 70 ad oggi, ovviamente tutto nello stile molto di Alberto, quindi uno stile molto irriverente, molto di racconto anche divertente di quelli che erano quegli anni, per dare voce a soprattutto la storia di Renato, che è la storia del padre di Alberto, che ha lavorato negli acciaierie di Piombino per tantissimi altri anni, ma dando la voce, insomma, a lui e dare la voce un po' a tutti i lavoratori e le lavoratrici che continuano, insomma, sui posti di lavoro a vivere certe condizioni. Infatti, insomma, nello spettacolo arriveremo anche ai giorni d'oggi, raccontando, insomma, un episodio che è avvenuto un po' di anni fa a Prato, non so se vi ricordate, quando morirono più di 12 persone, operai cinesi, in un'industria a Prato, insomma, in un'industria tessile. Quindi, insomma, facciamo un excursus di questo tempo, di questo, insomma, piccola storia di Renato, che però è una storia di tutte e tutti noi. Matteo, cosa ti ha convinto maggiormente del testo? Allora, il testo devo raccontarvi un po' come è nato. È nato per quasi un gioco, perché sono venuti 2 anni fa Alberto, Cumming Due e Simone a presentare i loro rispettivi libri, quindi Meccanoscritto, Amianto e Pide una vestaglia blu, all'OPG. E loro ci chiamarono e chiesero: ma perché non accompagniamo, insomma, questa presentazione tramite una lettura, un reading di alcuni brani dei libri, uniti a, insomma, alcuni brani che ci aveva sempre fornito Alberto di altri scrittori working class. Lui li definisce così, insomma, lui ha fondato adesso anche una collana che si chiama Collana Working Class. Ed è nato davvero come un gioco, cioè noi ci siamo messi a lavorare su questi testi che loro ci avevano fornito e mentre lavoravamo ci siamo accorti invece che poteva nascere qualcosa di molto molto interessante. E mi ha convinto soprattutto questo, cioè che ci sono vari linguaggi da un po' tutta la parte d'Italia, ovviamente, come dicevo prima, con questo fil rouge che è il linguaggio molto irriverente livornese di Renato, e però che, insomma, questo linguaggio molto vero, molto alla portata, ti rende però il racconto di alcune situazioni anche molto drammatiche che sono avvenute nei nostri giorni. Il tutto unito con una regia che tiene dentro un po' anche tutte le arti che facciamo all'OPG, quindi, insomma, abbiamo le musiche che provengono dal laboratorio musicale che facciamo sempre all'ex OPG, una parte di danza che fa parte sempre di quel laboratorio, quindi è un po' una summa di tutti gli strumenti artistici che noi utilizziamo. Ho visto che c'è l'evento Facebook rispetto alla festa di inaugurazione con tutto il programma completo. Invece ci lasci anche i riferimenti web della vostra attività teatrale all'OPG? Sì, allora potete andare a cercare sia direttamente sulla pagina Isopazzo dell'ex OPG e poi abbiamo pure la pagina Teatro Popolare su Facebook. E lì raccontiamo un po' quello che facciamo, essenzialmente facciamo solo questi tipi, per esempio adesso è partito un bellissimo laboratorio di più di 27 persone, in tutte le età, le provenienze geografiche, linguistiche, eccetera, eccetera, è molto molto divertente, assolutamente la maggior parte non attori, e E attraverso quello, insomma, anche lì produciamo degli spettacoli che vanno un po' a raccontare tutte le vertenze, le lotte che portiamo avanti all'interno dell'OPG per rivalutare un po' lo strumento teatrale come uno strumento utile a tutti e utile alla collettività, uno strumento di racconto che ci può servire, insomma, di abilitare e di utilizzare tutti insieme. Bene, allora ricordiamo lo spettacolo Workers a Roma, la festa di inaugurazione della Biblioteca Popolare Mondo Antico il prossimo 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Giardiello. Matteo, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. A risentirci prestissimo, grazie a tutti e a tutti, grazie.